coso, la, come si chiama, l'assistenza, ti, te la, sono fuori giri, te la dà l'assistenza se gliela richiedi, però te la spedisce dopo una settimana, anche se gratuitamente, capito? Lo so, ma magari se ti occorre è un casino. Invece a me ieri tornando con la moto, cazzo, mi è entrato aria un bel in testa, ma che sta succedendo? Arrivato a casa, ho guardato il mio casco, cazzo, che stavo perdendo la visiera, ho perso la vite che c'è sotto, là, che poi c'è un tappo sopra, è quella che fa muovere la visiera, la fa. Sono andato a casa, tu una vite particolare, cosa, beh, lo sai che ce l'avevi. Ce l'avevi? Nel senso che era in dotazione col casco, ce l'avevi tu? No, ce l'avevo io. Ed era di quelle particolari, testa piatta, praticamente che entra in un perno maschio, la vite femmina entra in un perno maschio, tutta particolare. Da cosa ce l'avevi? Ho avuto un culo, guarda, più grande di me. Perfetta, ci sta bene bene. E da cosa ce l'avevi? Allora, praticamente io, ogni cosa che si rompe, ho l'abitudine di prendere sempre le viti, i pezzi, e poi le metto in un barattolo, quando mi occorrono le tiro fuori. Ho detto, guarda, ci guardo, ma senza speranza proprio, me l'ho trovata uguale dentro. Lo so, anche io lo faccio, però alla fine ti riempi di mondezza, perché motorini, tutta questa cosa qua, riciclare è bello se hai posto, però poi alla fine, se non è che, perché io faccio così, conservo, metto da parte, dopodiché quando mi serve, per la fretta, per non stare lì, per la mandonia, meglio di non stare lì a cercarli in questi cassetti dove metto di tutto, vado e la compro. Ah, beh, quello è capito anche a me. Sì, ma questa vite qua non penso che in vita ci fosse, è una vite particolare. Non so se hai presente quelle viti femmina che entrano in un perno. Sì, ho capito com'è. Di solito sono ottonate, di ottone, color ottona. Aspetta, dove che mi sembra dove li utilizzavo, è una cosa, di solito hanno dei perni proprio, e quindi sono viti femmine con il perno che invece c'ha il maschio. Aia. Boh, non lo so da dove cavolo l'ho tolta questa vite, ma era la stessa lunghezza, niente. Come l'ho vittata, è andata subito bene, stavo già pensando di comprare il casco nuovo, tu non la ciappo più, questa vite qui è particolare, non si trovano mai più in vita se vai a cercare quelle vite. Beh, se il casco è buono ci dovrebbero essere, tipo una G1, Shoei, non la G1, Shoei, Arai, questi caschi qua hanno tutte le ricambi. Boh, non lo so, però... Fatto sta che era particolare per due cose, uno per il tipo di avvitatura che aveva, due, la testa doveva essere talmente piatta perché doveva entrare in un'insenatura giusta giusta uguale alla testa della vite. E cazzo, guarda, ho trovato tutto perfetto, perché poi andava un tappo sopra quella vite in plastica che c'ha, non so se vi spiego, un invito per entrare la testa della vite, se tu la vite ce l'hai più grande, più alta, più cosa non c'è. Allora, giro, gava, e vabbè, sei stato fortunato. Che marca hai detto che ce l'hai il casco? Io non me lo ricordo, che marca? Mi pare AGV. Vabbè, se AGV già si trovano i pezzi, già è buono. È una marca italiana, già va bene. Ma che moto hai che non ho capito? Fabrizio c'è qua forse. Ciao Claudio, non lo so, non l'ho sentito, te lo faccio già, andai avanti io. Ciao Claudio, ho sentito? No, io ho sentito solo a Globo, almeno che sia in ascolto. Fabrizio ci sei? Non ce la siamo, avrebbe risposto. Continuate, io sto ascoltando, sentiamo più tardi se qui adesso non so se deve ritornare lì, se sia ancora in cosa, come si dice, in laboratorio, diciamo in garage. E vabbè, te lo chiamo dopo, ciao a tutti, continuate. Ciao. Vabbè. Va. Capito, ciao. ne ho 2, 3, 4, 5 di casa. Allora, c'è tutta roba italiana? Sì, uno, vabbè, due sono i caschi che mi ha dato quando ho comprato la moto, Nolan si chiamano. E poi ne ho due che mi sono comprato io, uno l'ho comprato a mia moglie e uno l'ho comprato per me. Uno è un semi integrale e l'altro è normale, però con la visiera, ma con la visiera, con la, vabbè, con la, come si chiama? Quello che c'è la roba, la, non la visiera, ma già mi hai capito, il, non mi viene il nome, vabbè. E quello lì è lucido, è grigio lucido, quello che ho preso da mia moglie, invece mi ho preso il nero opaco, è bello, ed è quello che ho perso la vite, quello lì. Ma adesso te lo ripeto perché forse mi sei ritirato, ma la moto che cos'è? Non te l'ho detto, Suzuki, Suzuki 400. E allora, bellina, È il Burgman Suzuki 400, scooterone, ultimo modello. Scappa. Scappa Ruggero. Aspetta che sono qua un attimino, via, dove sono qua? Ma mi sono un po' incasinato, non capisco dove sono. 6,50 l'hanno fatto con le marce e con l'up down, praticamente c'ha due pulsanti up e down, quando più si inserisci la marcia te lo scrive nel cruscotto, nel contachilometri, ti scrive quarta, terza, seconda, prima, capito? Te lo scrive in digitale. Oppure lo puoi fare andare sia a marcia che a acceleratore, capito? Però se uno deve fare 200-210 km orari. Cappa, è una bella cosa deve essere. Quel mostriciattolo, No, io ho uno scherzo, cioè, non è mio, è di Chiara, c'è uno Scarver 650 che stiamo vendendo perché non la stiamo utilizzando, ed è un BMW però. Ah, è a marcia? Cappa Roger, è un ibrido, nel senso non è, è un avviamento fra l'enduro e la strada. Esatto. No, però simile, dai. Cappa, cappa. Quanto? Quanto la sta vendendo? 3.500, ma se li vale tutti perché è nuovo. Che anno è? Non te lo so dire, non me lo ricordo. Comunque lei l'ha presa, aspetta, sembra l'anno scorso, 2 anni fa. Vabbè, perché non aveva andato in giro in moto, l'estate, cavolo, è così bello. Che non è più bugana, qualcosa, con la cervicale, io lo so che mi fa dalla mano di Dio. Ah, e tu soffri di cervicale. Ma ti dirò che vendono dei giubbotti che sono favolosi. Io ne ho acquistato uno, un bel giubbotto lungo con doppia chiusura a lampo, una fina e una grossa, che arriva sino al collo, te lo copre tutto. Nel collo c'ha proprio il collo rigido, che poi tu come ti metti il casco ti entra un goccio, un filo d'aria, niente, proprio con la pioggia, l'ho provato con la pioggia di rotto, ma sai cosa vuol dire? Che sono tornato a casa che non c'era una goccia d'acqua sotto. Allora io ho sempre apprezzato i giubbotti dainese, l'avevo comprato io, non erano neanche ancora così famosi, perché ti parlo di quant'è? Circa 20 anni fa, 22 anni fa l'avevo preso il primo giubbotto dainese, costavano pochissimo e ancora si stava inserendo come marca, diciamo, non era così famosa. Adesso se vai a comprarlo non ti partono 200 euro. Di più? 350, 400. Io l'ho avuto il dainese, però ho avuto quello corto. Quello corto estivo, quello in panno, non quello in coso, in fibra, roba così. L'ho avuto in panno, Gore-Tex forse dovrà essere. ed era azzurro e celeste danese, lo usavo col Suzuki 150 che avevo prima, poi l'ho regalato alla ragazza di mia figlia che era ancora nuovo per andare in moto, adesso si è venduto la moto e si è venduto anche il giubbotto, capo di gosso. Complimenti per la delicatezza di lui, i regali non si regalano, e comunque a prescindere, io invece l'ho teso in Gore-Tex, quello che avevo io, il bello che era smanicabile, ma a prescindere da quello lo potevi usare in qualsiasi stagione, l'unica cosa non ti dovevi fermare in moto, perché se lo usavi d'estate, finché non stavi andando non c'era problema, come ti fermavi, mica ti sembrava un forno a microonde. Sì, è vero, scaldano molto, scaldano un casino. Quello danese che avevo io l'ho comprato su internet, l'avevo fatto un affare perché questo ragazzo ha detto ha scritto vendo giubbotto nuovo di zecca, per aver ricevuto lo stesso regalo, solo che gli hanno regalato due, uno tutti e due lo stesso colore e cose al suo compleanno, perché sicuramente sapevano che andava in moto e cose, e ne hanno regalato uno di una taglia e uno di un'altra, quello che gli stava se l'ha tenuto, uguali identici, e l'altro lo stava vendendo, e dov'era quanto l'ho pagato? Dilla tu, è io. 55 euro. Allora è un tonto, 55 euro e non è regalato di più. Mi è arrivata ancora con l'etichetta attaccata, io pensavo che fosse una fregatura. Vabbè, la buona spacca, a me mi serve, non ne ho, avevo di quei giubbotti che si gonfiavano in moto. E ho lavato la spacca sui bivi, ho trovato. E c'era tutta la storia scritta praticamente che ha avuto un doppione di cui uno era anche, gli stava anche grande ed era una 52 e io solitamente non sono la 54 come Jack, però ha scritto che era elastico, in effetti cazzo, mi stava proprio bene a pennello, proprio bello attillato come deve stare il giubbotto da moto, mi piaceva come mi stava. E poi c'aveva i bordini delle maniche che erano in pelle, proprio i bordi, in pelle nera. Il resto era azzurro e celeste, con la scritta rossa danese. Ma sono belle anche le scarpe danese, perché poi il danese ha fatto tutta una collezione per motociclisti, e non ultimo le scarpe che hanno quell'insertino sul piede destro, sul piede sinistro, scusami, che è quello appunto delle marce. E c'è l'inserto nella parte superiore, quindi una scarpa è diversa dall'altra, capito? Oggi sono arrivato al QTH, salgo un attimino su e riprendo fra 5 minuti, dai. Adesso